Sezione terza di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Sogno d'estate. Fra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonanti, la calda ora mi vinse, chinommisi il capo tra il sonno in riva di Scamandro, ma il cor mi fuggì sul Tirreno. Sognai placide cose dei miei novelli anni, sognai non più libri, la stanza dal sole di luglio affocata, rintronata dai carri rotolanti sul ciottolato della città, slargossi. Sorgianmi intorno i miei colli, cari, selvaggi colli che il giovine april rifioria. Scendeva per la piaggia con mormorii freschi un zampillo, pur divenendo rio. Sul rio passeggiava mia madre, florida ancor negli anni, traendosi un pargolo a mano, cui per le spalle bianche splendevano i riccioli d'oro. Andava il fanciullo con piccolo passo di gloria, superbo dell'amore materno, percosso nel core da quella festa immensa che l'alma natura intonava. Però che le campane suonavano su dal castello, annunziando Cristo tornante di mane a suoi cieli, e sulle cime e al piano, per l'aure, per ami, per l'acque, correa la melodia spiritale di primavera, e di peschi e di meli tutti eran fior bianchi e vermigli, e fior gialli e turchini, ridea tutta l'erba al di sotto, e di trifoglio rosso vestiva i declivi dei prati, e molli d'aure e ginestre si paravano i colli, e un'aura dolce movendo quei fiori e gli odori veniva giù dal mare. Nel mar quattro candide vele andavano cullandosi lente nel sole, che mare, terra e cielo sfolgorante circonfondeva. La giovine madre guardava beata nel sole. Io guardava la madre, guardava pensoso il fratello, questo che or giace lungi sul poggio d'arno fiorito, quella che dorme presso nell'erma solenne certosa. Pensoso e dubitoso, s'ancora espirassero l'aure o ritornasser pii del dolor mio da una plaga ove tra note forme rivivon gli anni felici. Passar le care immagini e sparvero lievi col sonno. Lauretta empieva intanto di gioia canora le stanze, Bice, china al telaio, seguia cheta l'opera del lago. Fine della sezione terza.